Il terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. L'intimità di Harriet Smith con Hartfield fu presto un fatto compiuto. Pronta e decisa di modi, Emma non perse tempo a invitarla, incoraggiarla e dirle di venire molto di frequente, e insieme con la conoscenza crebbe la reciproca simpatia. Come compagna di passeggiate, Emma aveva capito subito quanto sarebbe potuta riuscirle utile. Sotto questo aspetto, la perdita della signora Weston si era fatta molto sentire. Suo padre non andava mai oltre l'arboreto, dove due arginelle gli bastavano per una passeggiata lunga o breve a seconda delle stagioni. E dopo il matrimonio della signora Weston, Emma aveva troppo accorciato il raggio delle sue camminate. Una volta si era spinta da sola fino a Randalls, ma non c'era gusto. E una Harriet Smith, che la poteva in qualunque momento invitare ad accompagnarla, avrebbe utilmente completato la rosa dei suoi privilegi. Ma più la conosceva, più la stimava sotto tutti i rispetti e si rafforzava nei suoi propositi di benevolenza. Certo, Harriet non era brillante, ma aveva un'indole dolce, mite, riconoscente, aliena da qualunque presunzione e non chiedeva che ad essere guidata da una personalità superiore. La simpatia che aveva subito provato per Emma, la sua inclinazione per la buona compagnia, la sua capacità di apprezzare l'eleganza e l'intelligenza mostravano che di gusto non mancava, anche se non ci si poteva aspettare da lei forza di penetrazione. Tutto sommato, Emma era pienamente sicura che Harriet Smith fosse proprio la giovane amica che le mancava, proprio quello che la sua vita domestica chiedeva. Un'amica come la signora Weston era fuori discussione. Due come lei era impossibile averne. Due come lei non le occorrevano neppure. Era una cosa affatto diversa, un sentimento distinto e indipendente. La signora Weston era per lei oggetto di una considerazione fondata sulla riconoscenza e sulla stima. Harriet sarebbe stata amata come una persona alla quale potersi rendere utile. Per la signora Weston non c'era nulla da fare, per Harriet tutto. I primi tentativi di rendersi utile consistettero nel tentar di scoprire chi fossero i suoi genitori. Ma Harriet lo ignorava. Era pronta a dire tutto ciò che sapeva, ma su questo punto ogni domanda fu vana. Emma poteva immaginarsi quel che le tornava meglio, ma le sembrava impossibile che nelle stesse condizioni non avrebbe scoperto la verità. Dunque, Harriet non aveva forza di penetrazione. Si era accontentata di sentire e credere quanto la signora Goddard aveva ritenuto di dirle e si era fermata lì. Naturalmente la signora Goddard, le insegnanti, le ragazze, la vita della scuola in generale formavano gran parte della conversazione e non fosse stato per la sua conoscenza coi Martin della fattoria di Abbey Mill l'avrebbero interamente assorbita. Ma i Martin occupavano molti dei suoi pensieri. In casa loro aveva trascorso 2 mesi di felicità piena e amava parlare delle gioie della visita e descrivere le molte comodità e meraviglie del luogo. Emma ne stimolava la loquacità, divertendosi al quadro di un ambiente così diverso e ammirando la giovanile semplicità che poteva parlare con tanto entusiasmo del fatto che Mrs. Martin aveva ben 2 salotti, 2 magnifici salotti davvero, uno grande come quello della signora Goddard, e una prima cameriera che da 25 ananni viveva con lei, e 8 mucche, 2 Alderney e una piccola gallese, una graziosissima piccola gallese. E la signora Martin diceva che dal momento che le piaceva tanto, la si sarebbe dovuta chiamare la sua mucca, per tacere della circostanza che in giardino avevano un gran bel padiglione, e un giorno dell'anno scorso vi erano stati tutti insieme a prendere il tè. Uno splendido padiglione, grande da poterci stare 1 dozzina di persone. Per un po' di tempo Emma si divertì senza spingersi oltre la causa immediata di questo diletto. Ma appena venne a conoscer meglio la famiglia, altri sentimenti nacquero in lei. s'era fatta l'idea sbagliata che si componesse di madre, figlia, figlio e moglie del figlio, tutti riuniti sotto lo stesso tetto. Ma quando risultò che il signor Martin, il quale figurava sempre nel racconto ed era ricordato con immutabile simpatia per la sua sollecitudine nel far questo o quello, non era ammogliato, che nel quadro mancava una giovane signora Martin o comunque una moglie, in tutta questa ospitalità e cortesia fiutò un pericolo per la povera amichetta. Sospettò che a non tenerla d'occhio rischiasse di precipitare per sempre. Incontrarono il signor Martin proprio il giorno dopo, mentre passeggiavano sulla strada di Donwell. Era a piedi e, dopo aver rivolto a Emma uno sguardo molto rispettoso, guardò con non dissimulato piacere la sua compagna. Emma non fu scontenta di quell'opportunità di osservarli e, precedendoli di pochi passi mentre parlavano assieme, diede al suo occhio pronto il modo di formarsi un'idea abbastanza chiara di Robert Martin. Aveva un'aria molto assestata, da persona di giudizio, ma a parte questo nulla che lo distinguesse, ed Emma pensava che nel confronto con autentici signori avrebbe perso tutto il terreno guadagnato nelle simpatie di Harriet. Alle buone maniere Harriet non era insensibile e aveva spontaneamente notato, con ammirazione, non meno che con stupore, la squisita gentilezza di suo padre. Che cosa fossero belle maniere, il signor Martin aveva invece tutta l'aria di ignorare. Rimasero assieme solo pochi minuti, giacché non si poteva far aspettare Miss Woodhouse. Poi Harriet la raggiunse di corsa tutta sorridente e in uno stato d'animo eccitato, che Emma si augurò di poter rapidamente raffreddare. «Pensi un po' che fortuna incontrarlo, curioso! Solo per caso ha detto di non aver fatto il giro di Randalls. Non avrebbe mai creduto che prendessimo questa strada. Pensava che per lo più passeggiassimo verso Randalls. Non è ancora riuscito ad avere il romanzo della foresta. L'ultima volta che è stato a Kingston ha avuto tanto da fare che se n'è completamente scordato. Ma domani ci torna. È così buffo che ci si sia incontrati!» «Ebbene, signorina Woodhouse, è come se l'immaginava? Che ne pensa? Lo trova tanto brutto?» «Brutto è, senza dubbio. Notevolmente brutto. Ma questo non è nulla in confronto alla sua rozzezza. Non avevo il diritto di aspettarmi molto. E non mi aspettavo molto, infatti. Ma non l'immaginavo così goffo, così totalmente privo di finezza. Me l'ero figurato, lo confesso, uno o due gradi più vicino alla distinzione. Certo, non è distinto come un autentico signore», disse Harriet con voce mortificata. «Da quando ci conosce, cara Harriet, credo si sia così ripetutamente trovata in compagnia di autentici signori che la differenza col signor Martin non può non balzarle agli occhi. Ad Hartfield ha conosciuto splendidi esemplari d'uomini, colti e di bei modi. E mi stupirebbe che, dopo averli conosciuti, le accadesse di rivedere il signor Martin senza accorgersi che è un essere decisamente inferiore e stupirsi di averlo mai trovato distinto. Non comincia ad avere anche lei questa impressione? Non l'ha colpita nulla? È impossibile, ne sono certa, che le siano sfuggiti il suo aspetto goffo, i modi bruschi, la rozzezza della voce che, stando qui, mi giungeva priva di ogni modulazione. Certo, non è come il signor Knightley. Non ne ha l'aria distinta e il modo di camminare signorile. Sì, vedo abbastanza bene la differenza, ma il signor Knightley è così straordinariamente distinto. L'aria del signor Knightley è di una tale distinzione che non sarebbe giusto paragonare il signor Martin con lui. Non sarebbe facile trovare uno su 100 che porti scritto così bene in fronte signore. Ma non è il solo gentiluomo che negli ultimi tempi lei abbia frequentato. Che ne dice del signor Weston e del signor Elton? Confronti con uno di loro il signor Martin. Confronti il modo di fare, di camminare, di parlare, di stare zitto, e la differenza non potrà sfuggirle. Oh sì, c'è una gran differenza, ma il signor Weston è quasi vecchio, Deve avere dai 40 ai 50 anni il signor Weston, il che aumenta il valore della sua distinzione. Più una persona invecchia, Harriet, più importa che le sue maniere non siano cattive, più diviene urtante e disgustosa ogni volgarità, rozzezza, goffaggine. Ciò che nel giovane può passare, nel vecchio ripugna. Il signor Martin è goffo, è rozzo adesso. Che cosa sarà all'età del signor Weston? Difficile dirlo in verità, rispose Harriet con fare solenne. Ma è abbastanza facile intuirlo. Sarà un contadinaccio grossolano e volgare, incurante delle forme e non preoccupato d'altro che di profitti e perdite. Davvero? Molto male. Quanto i suoi affari lo assorbano già ora, balza agli occhi dal fatto che ha dimenticato di cercare il libro che gli aveva suggerito. Era troppo preso dal mercato per pensare ad altro, che è appunto come deve essere un uomo che voglia farsi strada. A che gli servono i libri? E io non dubito che si farà pure strada e sarà col tempo ricchissimo. Non v'è dunque ragione che la sua rozzezza, la sua mancanza di cultura, abbiano a turbarci. Mi stupisce che non si sia ricordato del libro. Fu tutto quanto, rispose Harriet, e lo disse con una punta di grave rammarico che Emma ritenne di poterle tranquillamente perdonare. Emma ricominciò come segue. Sotto un certo aspetto, forse, i modi del reverendo Elton superano quelli del signor Knightley e del signor Weston. Sono più squisiti. Si potrebbero più sicuramente prendere a modello. C'è nel signor Weston un che di aperto, tagliente, spregiudicato, direi quasi, che in lui riesce simpatico a tutti, perché si accompagna a tanta bonomia, ma che non si presta a essere imitato. Né vi si presterebbe il modo di fare tutto d'un pezzo, deciso, imperioso del signor Knightley, sebbene a lui si attagli a meraviglia. La figura, l'aspetto, la condizione sociale sembrano consentirglielo. Ma un giovane che si mettesse a scimmiottarlo riuscirebbe insopportabile. Credo invece che a un giovane si potrebbe tranquillamente raccomandare di prendere a modello il reverendo Elton. È così cordiale, affabile, premuroso, gentile. Direi anzi che negli ultimi tempi è divenuto particolarmente gentile. Non so se miri a ingraziarsi una di noi, Harriet, con una punta supplementare di dolcezza, ma ho l'impressione che i suoi modi siano più dolci del solito. Se ha qualche mira, è certo di riuscirle simpatico. Non le ho raccontato che cosa mi ha detto di lei l'altro giorno. E ripeté il caldo elogio personale che aveva strappato al reverendo Elton, rendendogli ora pienamente giustizia. E Harriet arrossì e sorrise e disse che il reverendo Elton le era sempre parso davvero molto amabile. Il reverendo Elton era appunto colui sul quale Emma puntava per cacciar dalla testa di Harriet il giovane agricoltore. Lo riteneva un ottimo matrimonio, solo troppo chiaramente desiderabile, naturale e probabile perché ci fosse molto merito a progettarlo. Era, temeva, quanto chiunque doveva necessariamente pensare e presagire. Difficile era tuttavia che alcuno la eguagliasse nella data di nascita del progetto, così come le si era formato nel cervello la stessa sera dell'arrivo di Harriet ad Hartfield. Più ci rifletteva, più le sembrava la soluzione buona. Tutto si prestava al caso nel reverendo Elton. Perfetto signore e non di bassa estrazione, ma nello stesso tempo non di famiglia che avesse il diritto di arricciare il naso alla dubbia nascita di Harriet. Poteva offrirle una bella casa e pensava Emma una rendita più che sufficiente, già che se la parrocchia di Highbury non era molto estesa, era noto che gli godeva di un patrimonio tale da assicurargli una certa indipendenza. Ed Emma lo teneva in alta stima anche come giovane cordiale, ben intenzionato e rispettoso, e non privo di un'utile esperienza o nozione del mondo che dir si voglia. s'era già assicurata che giudicasse Harriet una bella fanciulla, il che da parte sua le sembrava, insieme coi frequenti incontri ad Hartfield, un solido punto d'appoggio. Quanto ad Harriet, non v'era dubbio che l'idea d'essere preferita da lui avrebbe avuto il solito peso, l'abituale efficacia. Ed era un giovane molto attraente, un giovane che qualunque donna non schizzinosa avrebbe desiderato. Passava per molto bello. La sua persona era in genere molto ammirata, sebbene non da lei, per via di una certa ineleganza di tratti che non le riusciva ad ignorare. Ma la ragazza che si beava delle peregrinazioni su e giù per i campi di un Robert Martin in cerca di noci per lei poteva ben essere conquistata all'ammirazione del reverendo Elton. Non so che cosa ne pensi, signora Weston, della grande intimità fra Emma e Harriet Smith, ma io non la vedo affatto bene, disse Mr. Knightley. Affatto bene? Davvero? Posso saperne la ragione? Non credo che nessuna delle due possa giovare all'altra. Lei mi sorprende. Emma non può che giovare a Harriet. E fornendole un nuovo motivo di interesse, si può dire che Harriet giovi ad Emma. Ho seguito col massimo piacere gli sviluppi della loro amicizia. Come pensiamo diverso noi due, non ritenere che si possano fare del bene. Sarà il principio di una delle nostre diatribe intorno ad Emma questo, signor Knightley. Forse crederà che sapendo dell'assenza di Weston sia venuto apposta per bisticciare con lei e che sarà costretta a sostenere da sola la sua battaglia. Se fosse qui il signor Weston mi darebbe certamente ragione, perché in materia la pensiamo esattamente allo stesso modo. Ne abbiamo parlato proprio ieri, convenendo che per Emma è una fortuna aver trovato ad Highbury una ragazza a cui affezionarsi. La ritengo la peggior sorta di compagna che Emma potesse trovare. Non sa nulla, guarda Emma come a chi sa tutto, ed è in tutti i suoi atteggiamenti un'adulatrice. E tanto peggio lo è in quanto non lo fa di proposito. La sua ignoranza è una costante adulazione. Come può Emma immaginarsi di aver nulla da imparare se Harriet le offre lo spettacolo di una così deliziosa inferiorità? Quanto ad Harriet, a rischio il pronostico che da questa conoscenza non abbia nulla da guadagnare. Hartfield non farà che alimentare in lei il disprezzo dell'ambiente che è il suo. Crescerà raffinata quel tanto per sentirsi a disagio in mezzo alle persone fra le quali nascita e casi della vita hanno voluto che crescesse. Vorrei sbagliarmi, ma non credo che le idee di Emma siano fatte per ispirare forza d'animo o indurre una ragazza ad adattarsi razionalmente alle alterne vicende del suo stato. Si limitano a dare un po' di lustro. O confido più di lei nel buon giudizio di Emma? O sono più ansiosa del suo benessere presente, perché non riesco davvero a rammaricarmi di questa amicizia. Che bell'aspetto aveva la sera scorsa. Oh, lo so, lei preferirebbe parlare della sua persona piuttosto che della sua mente. Benissimo. Non mi sognerò di negare che Emma sia graziosa. Graziosa? Dica bella piuttosto. Può immaginare qualcosa che più di lei si avvicini alla perfetta beltà? Tutto, faccia e figura. Che cosa possa immaginare non so, ma confesso di aver visto ben di rado faccia o figura che più della sua mi piacesse. Ma è il giudizio prevenuto di un vecchio amico. Che occhi, i veri occhi nocciola, e così scintillanti. Fattezze regolari, volto aperto e un colorito. Oh, che fiore di buona salute e che altezza, che proporzioni armoniche, che figura salda e dritta. C'è salute non solo nel colorito, ma nei capelli, nella testa, nello sguardo. A volte si sente dire di un bimbo che è il ritratto della salute. Emma mi ha sempre dato l'impressione d'essere il perfetto ritratto di una salute piena. È la grazia in persona, vero, signor Knightley? Non c'è neo che possa trovare nella sua persona, rispose lui. La vedo esattamente come lei la descrive. Emma continua a proclamare che non si sposerà mai, il che naturalmente non significa nulla, ma non mi risulta che abbia mai incontrato un uomo verso il quale provasse qualcosa di serio. Non sarebbe male che finalmente si innamorasse del tipo giusto. Mi piacerebbe vederla insieme, innamorata e un po' in dubbio d'essere corrisposta. Le farebbe bene. Ma qui intorno non c'è nessuno di cui si possa invaghire ed esce così di rado. In verità, per il momento non sembra ci sia molto che possa tentarla ad abbandonare il suo proposito, disse la signora Weston. E mentre è così felice ad Hartfield, non posso augurarle di contrarre legami che, in considerazione del povero signor Woodhouse, solleverebbero tante difficoltà. No, per il momento non raccomando ad Emma il matrimonio, sebbene di questo stato non pensi affatto male, le assicuro. E con ciò voleva in parte nascondere, nei limiti del possibile, certe idee predilette sue e del signor Weston sull'argomento. In merito al destino di Emma correvano voti a Randalls, ma non era desiderabile che egli si sospettasse. E il tranquillo passaggio operato subito dopo dal signor Knightley al «Che ne pensa, Weston, del tempo che fa? Avremo pioggia?» la convinse che intorno ad Hartfield non aveva più nulla da dire o strologare. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.